Io mi sono preparato un po' di domande, però di tenere larga la traccia, da dire, non è proprio un'intervista da dire domanda 1, domanda 2. Beh, prima di tutto, se ti potevi presentare. Mi presento mi? No, beh, dico, so, ormai le anni che sono fuori dal giro, di conseguenza niente, le notizie le arriva. Il rapporto con la sede provinciale, ad esempio, non c'è più. Aspetta, proprio la mia domanda è come ti chiami e quando ti sei nato e dove? Allora, Comper Luciano, 1346, sì che gavenzai i nostri anni da portare intorno, sono nato a Vesnel, residente a Vesnel, abbiamo fatto prima fare un meccanico, dopo faccio una ferrovia e tra mezzo anche 4-5 anni in Cimea, adesso il pick up con la Cimea lì che non so sa chi fa, sa chi cammenta, comunque e gli ultimi anni in ferrovia e basta, dopo in pensione e adesso un po' in campagna, un po' baita, un po'. Volevo domandarti anche se ti puoi raccontarne chi è che era i tuoi genitori e se era attivi anche dal punto di vista sociale nella comunità. Ma chi è che era i tuoi genitori? Ti puoi raccontarne tua mamma e tuo papà? Zorzi Rosina era mia mamma, compa Virginio mio papà, mio papà veniva a 30 in bici a lavorare anche lui come meccanico. Mia mamma la figlia casalinga e basta, mio fratello è morto nel 2000, il compio Renato non so se è presente, mia sorella è sposata a Angardo, sua mamma del Michele Cestari e basta, cioè. Tua mamma, tuo papà, che rapporti aveva quel paese, quella comunità? Ma noi abitando a Sottocastel, non è che sia stata una bella cosa col paese, no? Eravamo abbastanza, portavamo il latte al casello, ad esempio, queste robe, però non erano, non è mai stato né in bar né in coso, come acli, come, ecco, di conseguenza era un po'. Noi eravamo lì, tra Cagliano e Visnello, insomma, cioè abiteva a Sto Castelmi prima della fora. Poi, quando è che è nato il tuo impegno nel volontariato, no? Nell'attività sociale del Visnello? Ma qua, quando è nato le Atli qua, cioè, mi ricordo ancora quella direzione Beccia, che era dentro il Cecato, che era dentro Sergio Ceccato, non Fiorenzo. E dopo, quando avevi iniziato qua, che il donne mi ha dato il terreno qua, e allora da lì in poi sono sempre stati qua, insomma, come zona de. Però a suo tempo non era un posto così, no? Gare gli altri bar, gare i Goler là, a Masera, gare al. Se si chiama. Ben. Gare i due bar così, però io era abbastanza. Non si veniva neanche al bar la domenica pomeriggio, la domenica dopo missa si veniva al bar così, però non era quel. Quel giro di persone che frequentiva la zona. Allora noi altri siamo sempre stati abbastanza isolati, come basta. Ma le Acli, ti te le hai viste nascere il circolo Acli o ti sei entrato che era già attiva? Era quel gruppo di. Solamente che vecchi, perché noi altri eravamo boci, che era qui che gli teneva il cinema, gli aveva, il Sergio Ciccato gli aveva la licenza del cinema. E portavamo avanti quello, vendevano le caramelle lì sul, quando si vedeva i biglietti alla gente, si vendeva le caramelle lì e si sbrigava i biglietti, le solite cose, però l'era ricreatorio, la sede era all'interno del ricreatorio, appena sulle riscalette proprio dell'oratorio. Sulla sinistra che era, una sala di, che era la biglietteria del cinema e lì si ne trovavano come acri. Da lì in poi, dopo siamo venuti qua, insomma, come che sta fatto questo passaggio del terreno e del coso, inizia qua e... Che esigenza esprimeva le acri quando le nate a Pesenelli? Cioè... Quali erano... sfogo, era cosa ne trovavamo, stavamo bene insieme, si faceva quel che si poteva fare, di gente qui in mezzo che avevano, perché mi ripeto, vendevano caramelle per sopravvivere. Ecco, e niente. Quindi niente. Le attività le era ristrette alle robe ricreative per quel che riguardano gli altri come giovani. Ma che mica ho 75 anni, sì che ti vai in triade. E roba ricreativa, non so, si organizzava insieme a Trepì, ad esempio, la gara dei trattori, la marcia per andare a Scanuccia, ultimamente anche sta fatta. Si organizzava queste robe de paesane ristrette del nostro ambito di gente, oltre alla gara di briscola, oltre al ste robette però avevamo sempre mantenuto il rapporto con la sede provinciale. Lo so, tutte le feste che organizzava è stata insieme o quelle robe lì della sede provinciale, avete sempre cercato di partecipare attivamente anche, perché non so, la castagnata, quelle robe era abbastanza, diventava anche impegnativo, perché per organizzare queste robe ti servirei benissimo bisogna darsi una mossa, so, per dire la raccolta del ferro. Qui là, se si che sta di Rio, se ti scominci a perdere colpi, dopo basta, se perde... Non so, io mi diceva ad esempio, l'ultima raccolta che è stata fatta, che era da dividere il rame dall'alluminio, non che sta l'aiuto del voi altri di gente verso quei che dopo ha portato il materiale dalla FIR. Cioè, c'è stato un errore di sguido. Sì, ma no, ma quelle robe che appunto se te le segui e te riesci a capire se te, non so dopo come tesseramento ad esempio adesso come. Bravi. Sì, c'è la legge che si dà solo. Ecco, mantenere quelle robe che cure e scampa, quelle per mantenerle. Okay. Come le sta il passaggio da socio a entrare nel consiglio e dopo la presidenza? Cosa è successo? Niente, non era mai nessuno che si diva veramente... Qui che aveva tempi poteva venire, allora qui almeno quelle 3-4 persone le portavamo avanti il lavoro, ecco. Non che sta una votazione seria di gente per oneri, per conoscenze o per cosa da dire adesso, ti scominci ti, mi finisco, una preparazione manca. Qualche duni che volesse andare a rientrare, non è mai stato, forse è qui che manchiva anche, penso. Cioè ti dici una maggiore consapevolezza di un'associazione più strutturata, ecco, invece era spontanea? Sì, come tutte le votazioni che è stata fatta questi ultimi anni per trovare 11 persone che si dava una mossa, se deve ai numeri, insomma, per trovare 11 persone. Dopo che le rileggeva i vari incarichi. E com'è che la sei evoluta dopo da ricreatorio a qua? Te ne racconti un po' cosa, com'è che si è evoluta la situazione? Insomma? No, è evoluta là quando che è stato deciso di venire qua di gente, e noi altri che avevano appunto questa licenza, che era pro tempore il presidente, cioè il presidente che era il cicato Sergio una volta, quello, e gli aveva la licenza a nome suo. Dopo il voleva, non, quando era via, quando che la, non è stata mandata via, no, ma però quando che è stato deciso con le votazioni, chi è che veniva subito dopo? Forse il Ferrer, Livio, beh, comunque il Sergio Cecato voleva tenersi la licenza in pratica. Allora il prete, Don, cioè, diciamo io, putasca, ben, il Don che era qua al suo tempo, l'ha deciso di lasciarne il terreno qua, in cambio di questa licenza famosa, cioè noi siamo venuti in possesso del terreno perché rinunciava alla licenza del... Ecco. Non è stato niente di votazione o santemino, è solo stato deciso così. E se arrivai qua, come creare la situazione? Vabbè, qua che era l'officina lì, dove era il magazzino. Il che va all'officina è quel che lavorava qua. E aveva una finestrella che guardava fuori sulla strada. E tu da dentro gli diva fuori la roba che gli serviva alla gente, insomma. Dopo che era da qui che si faceva fare il caretta manco, e allora era un altro, però il rapporto era il passaggio dalla strada al collo. E lì il piazzale così, che sempre sta come piazzale piano così. Dopo qua te scendevi e aveva il magazzino qua, il scaffale del ferro che serviva, di gente che aveva qua sotto, e niente, da lì siamo iniziati a domande a fare quella struttura, siamo andati avanti qua, che sta qui 5-6 che affirma, non so, l'Undertaler Enrico, il Renzo gli ha firmato per fare i soldi dalla cassa rurale per andare avanti con i lavori, perché dopo chi, quel che le sta muri, quelle sta cose, le sta lì carico a quegli imprensari, quello. Prima di via San Giuseppe, sulla destra, sulla curva che è il Renzi. La casa sopra, verso noi di gente, abita un impresario lì, adesso lavora al Boccia, lì, lavora su Fiol. Quello... Battisti? No. Il Checker? Quella cosa che aveva il naso un po' strano? Sì. Non è Battisti, però. Non è Battisti, no? Sì, si comunque come presente. Ecco, e quello la fa su, quel che era i muri di fondazione, cose. Dopo, sempre col volontariato, sta a far su, aperta la cosa, quello che aveva pagato sul materiale. E avanti così, tutti gli ultimi lavori che sta fatto. Adesso tocca a loro. Beh, guarda, è bellissimo. Sì, no, l'è sta rimessa in sesto anni fa. E, oltre al panico che sta messo là, perline, cose, dopo su Lucernari, sta fa su un po' de... Ascolta, volevo domandarti una roba, anche che ancora io penso che ti ho un po' di domande. Mm-hmm. Qual è il progetto che ti hai seguito con le Acri, col circolo qua a Pesenelli, di cui ti vai più fiero, che ti piacerebbe raccontare? No. Non mi sento proprio... Da dire, ho seguito quello e mi ha dato soddisfazione. Quello. Ma no, mi piaceva trovarne tipo con Perini Adelio, quelli qui 5-6 che aveva firmato anche per trovare questi soldi, e ne trovavo in me. Dopo che era mia moglie che la seguiva a Chirio alla Lucia, ma la seguiva a Chirio al Banco. E allora era quell'amicizia, era bel trovarsi perché era quelle persone che ti cogli, quel gruppo, si aveva formato questo gruppo. Dopo, finché che sta da pagare debiti, tutti era efficienti, tutti era finì di pagare i debiti che sta in calo di pressione. E allora lì si è perso un po'. E il Renzo, che ti diceva, era il Claudio, suo fratello, il Claudio, che abita via di fronte alla cooperativa, ti avevi dopo quelle strade lì. E adesso deve essere all'ospedale, il Claudio. Oddio. Non sai, no? Di fronte alla cooperativa? Sì, ti vai su per la discesa, non per la strada, no? Proprio per quel portico che è di fronte, scusa, la cooperativa, l'ex cooperativa, la pizzeria. Ah, la... ok, di là. Cos'è di cognome? Il Claudio? Cofre. No? Il Remone, il suo papà, anche per no. Hai presente? No, ti parlavi prima che come dire, è finito o è calato l'interesse della roba, parlavi anche tempo fa, mi ho fatto che ne so, 14 anni di Vigile del Fuoco e mi sono accorto che comunque è una roba normale all'interno del gruppo, che sia nei momenti di euforia, di sentirlo nel gruppo. Mi ricordo che in Dese per l'intera Sagra dei Caglian, che adesso devi essere in 30 per riuscire a metterli insieme, perché era proprio un'energia. E dopo, pian pianin, si è visto il calo, che sta al momento dei fermi per qualche anno, e dopo, un po' come qua, un po' con i pompieri a Caglian, è ripartito con altro spirito, con altro, anche con un'altra visione delle cose, no? Questo penso che sia sempre quel gruppo, però, fa parte del... quel gruppo che sostiene queste robe. Non è neanche l'epoca o il gruppo, si forma questi gruppi e da lì te ricavi questi... Ma... queste energie incredibili, perché sì, magari è una concentrazione di energia incredibile ed è anche normale che la va a scemare, insomma, perché come ti hai detto, appena finì a pagare il mutuo, sì, è calà anche la tensione. È calà perché prima ti trovavi tutte quelle persone che aveva firmato, quando scendevano, in direzione sede provinciale per discutere appunto queste robe, e ti avevi visto questo rapporto e questo collo. Fini quello, anche alla sede provinciale non è che l'abbia fatto in granché dei avanzamenti del rapporto, però quello è un altro. Sai che ero già dire. Ecco, finì quel discorso lì, finì per pagare i debiti, che non era più l'asilo di dover fare novità, dover fare. Ecco, e si è un po' cosa. Dopo, un po' che si è sposati, e allora lì ti hai un calo, perché se stai bene a tua casa, è difficile andare fuori. O sai, impegni in più anche, voglio dire. Cioè, dopo, e allora se il ricambio dopo non è abbastanza naturale, cioè mi dici e passani, l'ho fatti di chi, insomma, la sera mia moglie non so se la pensava, no, ma dopo che sta il momento in cui arriva il trasferimento, perché... dopo arriva il Calarino, ad esempio, e quello la porta altra energia, insieme alla Livia Alba, al suo marito, dopo che era che veniva su, ne veniva su a fare le pulizie, ad esempio, al negozio libro mercato lì di Sello, Mandacaru. Ecco, e allora lui aveva seguito quella strada lì. Mi dico ancora qualcosa di scritta su queste robe, dopo che si aveva Renato Piffer, che si aveva quello da intervistare, più che altro. Voi c'entrate anche con la rivista Sotto il Castello? Sì. Te ne racconti qualcosa? No, l'era Marco che si occupava, Marco la Livia Alba. Quindi resta importante quell'apporto lì, ma tutti le entrate così dei porta, anche se è una cretinata, metti la gara podistica o Sant'Emi, fa sempre parte di una strada da percorrere, capisci? Qualsiasi soluzione, qualsiasi, come si dice, la te porta, non so, una riunione, per scarsa che la sia, la te porta sempre a ricavarne qualcosa di beneficio, te fai sempre. Anche se magari dei piccoli progetti gli porta energia, gli porta energia. Chiaro. È una roba che avevo imparato anche con i pompieri, che a volte uno che frequenteva poco la viveva con il piccolo. Sì. Mi ricordo che i comandanti comunque inviassero sempre a parlare e sostegno, anche se il progetto apparentemente non era molto linea, ma con il gruppo. Senz'altro, è utilissimo. Ma qualsiasi... non so, la gara di Briscola era una cretinata che te prego, però ti porta sempre oltre a trovarsi, oltre a... ti hai sempre il rapporto utile. E lei la gara di Briscola, ti dà sempre. Sì, sì, sì. Mi viene in mente che fa parte di un'associazione, Valle del Rospac, si chiama, e tempo fa è uno che veniva poco, e si fa vedere poco, il taseva sempre. E da lì un mente fare un piccolo progettino che era veramente di chitarre così, cioè si sta. Lei è rinato all'interno dell'associazione, gli dà subito supporto e lei è completamente rinato, cioè una persona con entusiasmo adesso. Sì. Non si riesce a entrare nel filo della recuperi la persona, insomma, non è mia, anzi. E sai che dà le api, secondo te, a Besenen? Cosa che la dà? Cosa le ha data a Besenen? Ma le api, oltre al... noi che avevamo il Feller Livio, ad esempio, che l'era l'addetto sociale, che portiva a Trento i vari, le varie documentazioni per fare le tasse, per tutte quelle robe di burocrazia. E quello, bene o male, perché non, mica sempre l'era ben vista da tutti, no, come, però, perché era Do Galetti e il Feller Livio e il Serge Ceccato. E allora era un po' di rivalità anche fra, però in quel periodo sia uno che l'altro gli ha portato questo avvicinamento agli Acli, sia per pagare le tasse, sia per se gli serviva qualcosa di delucidazione da parte degli interessati. E allora in quel momento le Acli erano un boom abbastanza. Dopo si è andati avanti lo stesso, adesso anche le sedi provinciali la sa distribuire a tutti i vari incarichi, ti trovi quelle 20 robe che le fa le Acli, insomma, e allora quelle le ha un po' sminuì quel discorso di. Il paesan che si riferiva adesso abbiamo perso un po' non so, mi adesso se funziona ancora il patronato, chi lo ancora c'avevi? No, patronato Non capisco, no? Da lui no, sono, Luisa no, aveva deciso in teoria di smettere di dare consulenza, perché comunque anche lei era stufa, insomma, dell'impegno. in rapporto con la 7 Rovereto non la Ah vepuna. no, tu li hai ancora, nel senso, con la tessera hai a disposizione, il fatto che ti vai in sede, paghi di meno e ti fanno 7,30 e tutto. O altre documentazioni, insomma, così. E noi abbiamo mandato su di allora, cioè di Turiano, ma per il discorso del Covid prima, che che era sì, che sta. bloccata, è stato un po' così. Infatti è un'altra cosa che dovremmo recuperare. Infatti bravo, anche che me li mette. Quella lì è una roba. Infatti ti ho fatto proprio una domanda così, cioè che sta dei anni in cui il Circolo Acri resta una presenza importante anche sotto il profilo sociale dell'averde. Tre gare di sci di gigante all'AM e quelli organizzavano. Adesso è un po' più delicato il discorso perché ci sai benissimo, sai che ci sono tempi di pullman, non te che stai dentro con le spese, di conseguenza. Però le tre gare di sci le erano sentite quando si fece la premiazione qua, non so se ti ricordi, no? Si fece la premiazione, magari chi piende zen, come non si chiedeva più un'altra. Ma sì, Oltre al servizio del patronato, vi era un'attenzione anche al sociale sui bisognelli, cioè che ne so, seguire persone fragili o difficoltà di famiglie. sta pensare a queste robe, si pensiva alle persone anziane. Se li cadono all'ospedale a fare la spesa, cosa, era stata valutante, però dopo mancava proprio quel che si togliesse proprio questo incarico famoso, non è mai stato tolto in pratica quel discorso lì, no? Gavedu può aver cercato di seguire particolari casi, per esempio legati all'alcolismo o cose del genere. Verrà successo? Ma sì, ne era stato tolto in considerazione anche questo discorso qua, però non veniva approfondito questi temi, saltava fuori ogni tanto, quando che, anche perché si tocchiva, perché col bar quel cioc che bisognava ascoltarlo, però non è che. Non so se chi ha formato un canale di anti-alcolismo oppure per dire su quel fatto che. Tanto perché sono andato a pensare, comincio ad essere vecchiotto anche a me, perché da 30 anni che sono socio agri, come io metto adesso, avevo 18 anni quando sono arrivato qua. Effettivamente è normale, ma gli avventori, i clienti, chi beveva è molto molto diverso. Mi ricordo anche una situazione molto degradata. Sì, no, no, per quello che era ben situazione. Per quello. Quindi ne parleva, però non si riusciva a fare. Ma, sì, no, no, no, non è mai stata portata avanti una questione di gente. Così se ne parlava, però un gruppo che si fosse che abbia accettato questo discorso non è mai stato. Ascolta, sei verso la fine così, però una domanda che mi sono sempre posto, un po' magari immagino, perché il circolo Acri del Besenello è diverso dagli altri circoli trentini, ovvero perché è ancora aperta la mescita mentre tutte le altre mescite in Trentino le ha scomparse? No, non le ha scomparse tutte. Tre, mi pare l'ultima assemblea. Sì, tre, quattro, sì. Perché Besenel è riuscito a tenere da verte il servizio mescita? Sì, perché aveva una testa più dura degli altri, non so, quello il paese medesimo. Fra Trento e Rovereto, fra. E dopo, come ripeto, la mescita, se per mantenere un gruppo, per mantenere, se te hai qualcosa di una struttura, né, dove puoi trovarsi, dove puoi. Allora, altrimenti diventa fuori come Caliamo, ad esempio, Renzo, se ho da fare, però non avendo una sede, non avendo le. Mi ho sempre battuto per la sede, ad esempio. Quindi ti vedi uno degli elementi, sicuramente è una sede consona, una bella struttura che aiuta chiaro, a tenere la verità. Chiaro, chiaro, perché dopo che non è la mescita, sì, si trova e discute, gli riporta, perché però non ti può dire avere un. Che stati i momenti che ti sei dito al presidente, boh, sarò su? No, anzi, sono sempre stato opposto. Sono sempre stato opposto perché, non so, grado di qui che voleva dar via la mescita, ad esempio, dal gran privato, mi sono sempre opposto a questo discorso. Era di qui invece che buttava perché si credesse via la licenza, insomma, che si desse, però le perdere in qualcosa di storico non ti puoi pensare. Era, se si chiamano Iuri Battisti, quello deve i numeri per avere la cosa. Però se perdeva tu quel che l'è, se vuoi attaccare fuori una carta, sontemi, devo chiedere il permesso per attaccarla fuori al privato, insomma, e allora ne siamo sempre battuti su quel. Per non parlare di indipendenza, ti dici, no? Cioè, quel valore che aveva la mescita. Insomma. Non te ne può casa tua, insomma. È chiaro. Gli altri che ne trovavi bene, era perché ti venivi qua e ti potevi alzare la testa e star lì tranquillo e spero che continua, insomma. E se no. Cosa che te dai da consigliare, da proporre a Edo, che è uno dei nuovi amministratori? Ma il rapporto senz'altro con la sede provinciale deve essere. Bisogna aiutarli alle feste, bisogna, non so, la gara di briscola ti puoi organizzarla te per se finisse questa pandemia, perché, non so, stanno si da fanno. non so, noi ci siamo un po' divisi i compiti, e il presidente e un vicepresidente, diciamo, che seguono la sede di Trento. Sì. Quindi ad esempio... Quello, tenere il rapporto, anche se sempre non si va d'accordo, oppure se le fa di gusto, che tenere il rapporto, quel senz'altro, con la sede provinciale, perché... ma decide in pratica se non so, mi dica la chiusura della messa medesima, l'ori che decide, che stabilisce queste aperture, queste chiusure, l'appoggio le deve essere, sì, che una delle robe senz'altro è quella della sede provinciale, da tenerla dopo che queste votazioni manca lì, non tenere il rapporto, insomma. Dopo che la cos'è che si chiama? La zona, il presidente di zona, qui lì anche, quelle due o tre volte che si ritrova là in giro, non so se gli è venuto qua ultimamente. Ultimamente no. No, queste robe qua è un delitto, perché visto la zona, visto la sede, deve venire, insomma, sta attenti, vedere per cosa che noi viene al limite, trovare il motivo, perché la zona alleanza è importante come zona, perché sempre dentro quei due tre che può dare idee. So che hanno fatto anche una grigliata recentemente con gli altri direttivi, diciamo, sì, del circolo, cioè, grazie. Mi ha riportato, diciamo, belle parole, cioè, quelle robe lì, si forma quel gruppo, quel coso, quelle... dopo quando si trova tutta la zona così, l'attività del circolo la riportano degli altri circoli, se te sei in contatto, se te sei, capisci? E allora è importante. Ma così sono benedetti. Però quel pifferrenato c'era da sentirlo. Perché? Perché? Beh, l'ha fatto il presidente prima di me, prima del Calavim di gente. E oltre che intelligente, lo conosci? Molto piffero, magari l'ho visto ancora qua. Ma no, io non ho più visto il circolo, forse una volta. L'ordine dei presidenti, più o meno, non ti ricordi? Beh, il Sergio Ciccato, il Feller Livio, oppure suo fratello Lezio. Dopo te che sei stati? No, dopo è venuto Renato Piffer. Ok. Dopo è venuto Calavim. No, Lucio. Lucio Battisti. Lucio Battisti, dopo il Calamì? No, forse viceversa, comunque. Ok. E dopo del Calamì sono venuto lì. E dopo sono morto. E dopo è venuto la Chiara o Gianella? La Chiara. Gianella non ha mai fatto il presidente, no. E dopo la Chiara? Da Chiara. Adesso il Piero. Dietro. No, Piero possibile. Ah, proprio Piero. Del nome sulla carta d'identità è Piero. No. Piero. Ah, Piero. Però anche sua mamma lo chiama Piero, quindi penso sì? Che. Sì. Piero. Ecco, non so, se hai altre domande, qualche curiosità o. Beh, se vediamo dai, basta che peghi un colpo, se... Non mi so. Piace molto questa cosa che vi trovate bene proprio come gruppo, cioè che la cosa che ha permesso le acque di continuare. Era assolutamente. Ma si riferiva a quelle, non so, anche alla raccolta del ferro, ad esempio, se mandava i soldi in Brasile a Don Francesco, quel robettello lì si che teniva proprio, si teneva con boia di far, cioè certo che se ti nante perdi giro, e allora per qualche motivo, non per la per la, e allora può, bisogna tenere a quelle tradizioni, ma quelle. Sì, o comunque fare delle cose che le è cicliche, che forse è quel che unisce anche tanto, da dire ogni anno si fa quello, ogni anno si fa quello. Senz'altro. Cioè il fatto del rito quel, anche, no? Da tempo fa leggevo l'importanza del rito nella comunità. Quel minimo di attività e di cose, ti devi inquadrarle e farlo, cioè. Da mantenerle. Bisogna mantenerlo, sì, perché altrimenti. Ma io potrei fare la stessa roba che fa i valori. Lei, da quel che ho capito, che credo, lei proprio deve mantenere il rito, cioè ogni anno si fa quella cosa lì. Che non vuol dire pure accogliere il ferro, magari che altre esigenze o che altri interessi, ma il fatto del fare tutti gli anni quella cosa lì, che ho visto che l'aiuta molto anche al gruppo a mantenere la coesione, no? Dopo che sempre la gioia di stare insieme, le cene, la gridiate tutti insieme, no? Come gruppo, quello è importante, no? Sì. No, a tavola si sta meglio. Si trova sempre il. Sì, perché si stempera anche magari piccole incomprensioni. Un po' tutto, la società si vive a contatto con tutta questa gente, insomma. Sia che dopo non si andrà d'accordo con tutti, ma è quello sì, è sempre quello è un po' un... Fa parte, insomma, il fatto che sia fruibile anche a tutti come circolo. Comunque, dai, a posto? A posto, ne troviamo qualche sera?